Io sono ammalato e lunedì sarò operato e quindi le lezioni sono sospese per almeno per una settimana, quindi io conto di tornare il 29 di aprile, se tutto va bene. Quindi naturalmente è molto difficile per me fare lezione quest'oggi, ma insomma uno può fare delle belle lezioni di letteratura, aver formato tante generazioni di persone, ma se poi non ha le palle, che uomo è, insomma. Quindi cerchiamo di fare quello che è possibile. Allora, ieri stavamo... Aprite un po' la finestra, per cortesia, in fondo. Grazie. Allora, ieri stavamo vedendo questa poesia di cui la prima osservazione intorno alla quale riguarda la brevità dei versi, che serve... brevità dei versi abbastanza inconsueta in Baudelaire, che serve a darci un senso di leggerezza. È l'invito a un viaggio felice, e questo tema del viaggio verso un posto felice è un tema che viene abbastanza da lontano, cioè non è un tema esclusivamente romantico. Il punto di riferimento più interessante è probabilmente L'Embarquement pour Citerre di Watteau, che vi consiglierei di vedere attraverso internet, e su cui d'altra parte si è soffermato lo stesso Baudelaire. Qui l'invito al viaggio viene fatto alla donna amata, questa donna che non ha mai dei tratti, come avete potuto vedere, dei tratti precisi, caratteristici, insomma, no? Per cui noi abbiamo parlato di una intercambiabilità di queste donne, e ci importa poco che una sia la prostituta oppure sia la donna che lui ha amato, Jean Duval, no? O anche quella che citavamo, Marie Dobrun, mi pare. La poesia è articolata in tre strofe e intervallata da un ritornello che è quanto mai significativo. Le tre strofe riguardano, nel primo caso, l'aspirazione alla fuga. Nel secondo caso si vede, per così dire, l'interno, come se ci fosse una macchina da presa rivolta verso l'interno, e l'interno di questo paesaggio è una... Terza strofa riguarda invece la macchina da presa, esce fuori, è rivolta all'esterno. Qual è il posto, la meta del viaggio? Con ogni probabilità, anzi direi con sicurezza, è l'Olanda, che veniva avvertita come un paese di romanticismo, come un paese di sogno, di beatitudine, di follia. Chi segue il corso di Proust avrà veduto che molti, molti anni dopo la stessa Albertine di Proust desidera, per la sua fuga, per la sua liberazione complessiva, desidera andare in Olanda. Infatti il narratore sta molto attento che non faccia progetti per andare in Olanda. Cosa si fa in questo paese di sogno? Ieri abbiamo commentato la strofe in cui si rivolge con appellativi tenerissimi, uno intraducibile in italiano, quando parla di ma soeur, perché non è sorella mia, cioè in francese suona con una una qualità, una sfumatura semantica amorosa, erotica, mentre sorella naturalmente in italiano non ha questa connotazione. L'altra è mia bambina, che invece è un po' universale, perché ripeto, anche una donna che non si presenti stricto senso come una bimba poi è sentita dall'amante, indipendentemente non solo dalla grandezza fisica ma anche dall'età, perché uno può dire mia bambina rivolta alla propria donna quando anche la propria donna abbia 60 anni, 70 anni. Come tu percepisci questa figura, eh? D'altra parte, spostando sfera affettiva, noi vediamo che i genitori considerano poi bambini in qualche modo deliziosamente, anche dannatamente a volte per i figli stessi, quando i figli sono quarantenni, però rimangono sempre i loro bambini, l'atteggiamento è sempre in questo senso. E quello che è il progetto di vita è il progetto di andare là-bà, vi dicevo appunto la caratteristica di questo là-bà, che è un laggiù, ma con una connotazione che il laggiù non ha in italiano. Ecco perché vedete come diventa sempre fascinoso, insomma, il tema della irrecuperabilità di certi concetti da una lingua all'altra, in fondo, no? Noi diciamo laggiù e va benissimo, ma in laggiù non c'è quel senso di perdizione e di abisso che abbiamo invece nella Ba. Mi pare che ieri citavamo pure la poesia di Mallarmé, la Brise Marine, una poesia del 65. La Ba comunque è un concetto assolutamente poi romantico decadente, un romanzo famoso di Wismans, quindi siamo nel decadentismo inoltrato, si chiama, si intitola La Ba. E che cosa facciamo in questo là-bà? Facciamo una cosa da paradiso terrestre, se vogliamo, cioè amare a piacere. Amare a piacere. E dicevamo, amare e morire, perché poi in fondo l'alternativa a un amore assoluto che per naturalmente per investa tutta la propria esistenza è la morte. Una vita senza amore non vale la pena di essere vissuta, non vale la pena di essere vissuta. Questo concetto della vita che non vale la pena di essere, non vale la pena in certi casi di essere vissuta, è un concetto molto significativo e importante. Per esempio, non dobbiamo dimenticare che nel padre di tanta parte, l'immensa parte della cultura moderna, che evidentemente è la Divina Commedia, insomma, coloro che non hanno vissuto vengono giudicati da Dante, il quale, ben inteso, si muoveva attraverso criteri molto rigidi di tomistica, San Tommaso, e ne parlavamo di questo, vengono collocati nell'antinferno. Che non meritano neppure l'inferno. Dante li chiama questi sciagurati che mai non fur vivi, non fur vivi. Chi non si segnala per una sua inclinazione affettiva, quando anche questa inclinazione affettiva sia colpevole e in vario modo, dall'avarizia alla lussuria, non merita di essere accolto, non merita di essere accolto. Guardate la sintesi, amare a piacere e poi amare e morire. La grandezza dello scrittore, di qualunque scrittore, poi è sempre riconoscibile, se ci fate caso, basterebbe per dire di qualunque artista, in questo straordinario fenomeno intellettuale, procedimento intellettuale, che è la sintesi. Mettere, sintesi è una parola greca, come evidentemente sapete, viene da syn tizemi, tizemi vuol dire colloco, pongo, syn vuol dire con, quindi porre insieme. Allora guardate questi due verbi, amare, congiunzione copulativa, e morire. Se per avventura lui avesse voluto allungare il verso e avesse voluto dir di più, no? Mettiamo, inventiamo una sciocchezza, insomma, occorre amare, e nell'ipotesi che l'amore non sia, sto inventando, nell'ipotesi che l'amore non sia possibile, quel che resta è la morte. Voi sentite come in una perifrasi di questo genere sarebbe stato enormemente attenuato l'effetto estetico, che invece esplode come una pallottola, come una bomba, dicendo amare e morire. Quindi il processo di sintesi è estremamente importante. Vi richiamo il fatto che ci sono due processi estremamente importanti nelle cose dell'arte. Uno, quello della sintesi, come forse sapete anche dalle scuole, insomma, cioè di mettere assieme i concetti nel modo più pregnante possibile. L'altro processo su cui io ho riflettuto in questi ultimi anni, a dire i tempi, è quello che Michelangelo chiamava del levare. Tutti quanti, quando avete fatto i pochi temi che avete fatto nelle orribili scuole che si sono toccate in Italia, avete fatto dei temi e sicuramente avete fatto la brutta copia. Passando dalla brutta copia alla bella copia, voi avrete fatto delle cancellature laddove vi sembrava che ci fossero delle sbavature, delle ridondanze. Se farete, chi fa la tesi di laurea si renderà conto che il professore a cui fate riferimento spesso vi dice, insomma, auspico per lui e per voi che ve lo dica, dice: questa è una ripetizione, no? Ecco, Michelangelo diceva qualcosa di molto interessante, che preso alla lettera può riuscire un po' inquietante. Diceva che l'arte la si fa per via di levare. Michelangelo era infinite cose, era un pittore, eccetera, era uno scultore, come tutti sappiamo. Allora, rogatus sententiam, avendogli chiesto che cosa voleva dire per via di levare, lui rispose: c'è un blocco di marmo? Allora io con lo scalpello, avendo in mente quello che voglio fare, tolgo il marmo superfluo. Naturalmente è molto facile a dirsi, poi a fare il Mosè di Michelangelo, c'era Michelangelo per l'appunto. Ma anche nella scrittura questi due processi sono estremamente importanti. Il processo del sapere costruire delle sintesi e il processo del levare. Per far questo occorre avere una grossa disciplina. E vorrei farvi notare questa disciplina consiste in una cosa che un grande scrittore, primo Novecento, aveva detto, che era Paul Valéry. Ascoltate bene quello che diceva Valéry. Diceva che è perduto lo scrittore che non sappia rinunciare a qualcosa. Tutti quando scriviamo, ogni tanto ci pare, quanto più naturalmente siamo poco scrittori, siamo vicini ai parametri intellettuali e culturali della giovinezza, di aver fatto la bella frase, no? Non è con le belle frasi che si fa la buona scrittura. Flaubert diceva: non è con le perle che si fa una collana. Quindi, quando tu hai scritto una bella frase, ma se questa bella frase non si adatta al contesto, non la puoi lasciare. Naturalmente, voi giustamente dite, ma uno che inizia a scrivere, che non sa scrivere, grazie a somma che riesca a fare la bella frase. Eh sì, grazie a somma. Però sappiate che le cose stanno così, quindi procedimento di sintesi, procedimento del levare e non affezionarsi alle cose che si dice. Tutto è sostituibile, diceva in modo paradossale Valéry, fuorché, diceva, ma era un paradosso, era una battuta, una butata, fuorché la Phèdre di Racine. Tutto il resto è sostituibile. Questo per dirvi che la Federer ha una sua immacolata perfezione, ma questo è un punto molto importante. Bisogna sapere, questo è il terzo criterio che vi propongo, bisogna sapere rinunciare a quello che pur crediamo bello se sia una perla e non aiuti la costruzione della collana, se sia solo una perla. Con chi vuole vivere in questo paese? Vuole vivere con la donna amata. Questo stare insieme alla donna amata è espresso in questo avverbio insieme. Insieme. E perché, insomma, poi questo è il sugo dell'esperienza affettiva alta, no? Lo stare insieme, la religione, direi tutte le religioni, insomma, che trattano molto evidentemente il tema dell'affettività, sia la religione cristiana sia quella islamica, pensano moltissimo a quest'idea dello stare insieme. La felicità è stare insieme. D'altra parte, noi nel piccolo della nostra vita vediamo che l'infelicità, per contro, si manifesta quando la persona che amiamo, può essere la mamma e poi via lì, in seguito ci viene il figlio e ci viene sottratto. Quindi questa parola chiave, stare insieme, che mi pare ripeta due volte lo ripete, certamente, ensemble, ensemble, è proprio un po' la chiave di questa felicità nel viaggio felice in Olanda. E a questo punto lui fa uno strano paragone, proprio che riguarda i cieli dell'Olanda. L'Olanda viene concepita, Baudelaire non è mai stato in Olanda, però viene concepita come un paese del nord, quindi come un paese che sia nebbioso, acquatico, nebbioso. E lui paragona i soli inumiditi di quei cieli bruyé, turbati. I cieli sono turbati perché sono pieni di nuvole, e quindi in conseguenza del fatto che siano turbati i cieli, anche il sole si inumidisce. Ebbene, paragona questo alla donna amata, e in particolare a questi occhi della donna amata. Gli occhi sono, per qualunque essere umano, insomma, la spia, si dice nel luogo comune, la spia più così evidente dell'anima, evidentemente, no? Guardate che non sono occhi buoni, sono occhi, dice lui, traditori, ma sono occhi al tempo stesso pieni di lacrime. E allora l'amante si chiede: ma che occhi sono? Gli occhi di una che non mi ama e mi tradisce? Ovvero sono occhi di una che mi ama, non vuol farlo vedere? Perché quello che Baudelaire, pur nella sua scarsa conoscenza della figura femminile, ma nella sua profonda conoscenza dell'affettività umana, quello che mette in evidenza è in fondo l'imperscrutabilità dell'oggetto d'amore. Cioè, noi non riusciamo a capire fino in fondo, ci si sposa, si vive assieme, si fanno le nozze d'argento che si sposa, le nozze d'oro, e poi si arriva al termine della vita e non... certo, non ci si fa più domande con troppa ansia, l'ansia è riservata ad altre cose, e quindi si vive quietamente insieme. Ma poi, quando uno dei due scompare, l'altro si fa una domanda: ma com'è andata veramente tra di noi? Lei, mettiamo che sia lui che sta parlando, lei mi ha amato? E la domanda ancora più bruciante e più irrespondibile e io l'ho amata. E allora le anime semplici e non semplici pensano, vabbè, se esiste un altro mondo, se esiste un al di là, in un al di là saprà come sono andate le cose veramente. Magari chiederà la testimonianza delle persone più intime, amici o figli, e dirà a queste persone care, vorrei che sapeste come sono andate le cose con vostro padre. Vorrei che sapeste che quelli che sono stati tradimenti erano stati motivati da disperazione, o viceversa lui. Lui, mettiamo, potrà dire, vorrei che sapeste che quelli che a voi bimbi sono apparsi degli atti di egoismo erano segni di stanchezza e di disperazione. E poi ci si ama da giovani e poi non si capisce mica più bene quello che capita. Il flusso delle cose, della vita ci porta avanti. E diventano umanamente affascinanti questi occhi traditori e bagnati di lacrime. Vedete anche qui una sintesi straordinaria, perché gli occhi traditori potrebbero sembrare occhi cattivi, ma se sono bagnati di lacrime, il lettore è depistato e si chiede, ma che occhi sono? Ma com'è stata la persona che io ho avuto vicino per tanti anni? Molto spesso, la maggior parte delle volte, la domanda è impossibile. C'era una cosa che vi ho segnalato sicuramente qualche volta di Kierkegaard che vi raccomanderei vivamente di leggere ove non aveste ascoltato il mio suggerimento sinora. Nella grande opera di Kierkegaard che si intitola Out Out e nel tomo secondo dell'edizione Adelphi voi troverete a un certo momento la storia, è un capitoletto, di Marie Beaumarchais. Questa storia è una delle cose più belle che siano mai state scritte e apparentemente non ci riguarda, perché è semplicemente la storia di una donna che è stata tradita e fa un esame, quindi non è il caso di cui stiamo parlando, e fa un esame, anzi fa un'inchiesta, perché ogni amato tradito fa un'inchiesta, ogni amato tradito diventa un pubblico ministero all'altro, e siccome l'ama arriva in un primo momento alla conclusione, questa è l'espressione che Kierkegaard usa, che non è stato un ingannatore. Ma poi l'odio per essere stata tradita la porta a fare un ragionamento lungo, complesso, ferreo, perché questa donna è di lucidità strepitosa. E alla fine dice, sì sì, è stato un ingannatore. Ma poi ha pietà per lui e per se stessa. E dice che può avermi amato come io ho visto se fosse stato davvero un ingannatore, e così va avanti. Questa pagina, che ripeto non c'entra con il nostro discorso, c'entra invece per un punto, per la finale, per la chiusa. Sapere o non sapere chi era la persona a cui siamo stati vicini. Perché questo processo che lei intenta, Marie Beaumarchais, che lei intenta all'amato, finisce con queste parole, con questa ammirabile pagina. Dice, è come se uno avesse ricevuto una lettera e in questa lettera sapesse che è contenuto il mistero della sua vita. Il mistero della nostra vita, e non sono parole astratte, sono parole le meno astratte che si possono immaginare. È tutto. Ci spieghiamo perché ci siamo comportati in un certo modo verso un amico, il genitore, la moglie, il marito. E allora la naturalmente avidamente apre la busta e vuol leggere questa lettera. E la lettera però è difficile da leggere, perché le parole sono qua e là sbiadite, e quindi si può dare un senso o un altro, ma naturalmente l'amante non si lascia piegare e continua a leggere questa lettera. Dà una costruzione, una ricostruzione, un'altra ancora. E dice Kierkegaard, alla fine le rimarranno soltanto gli occhi bagnati di lacrime. Mi è venuta in mente questa pagina perché in questa alternanza della donna amata tra occhi traditori e occhi inumiditi dalle lacrime, e c'è qualcosa di così assolutamente vero che sormonta anche la lieve entità della poesia. E vedete la grande poesia come può essere, anche se la struttura complessiva, questa è un'invitazione, è un invito al viaggio topico, cioè sono stati fatti infinite volte degli inviti a un viaggio con la propria persona amata in un'isola felice. C'è anche un poemetto in prosa di Baudelaire che riprende lo stesso tema dell'invitation au voyage, quindi non c'è nulla di originale. E se uno guarda con occhio superficiale questa poesia non trova poi nulla di cui particolarmente innamorarsi, ma le vere gemme sono nascoste, e allora basterebbe cancellare la poesia e considerare questi occhi traditori bagnati di lacrime per sentire una grandezza assoluta. Che cosa ha fatto? Mi ha tradito? Non mi ha tradito? E arriviamo al ritornello famoso. Questo ritornello è stato considerato fondamentale da uno dei maggiori scrittori del Novecento francese, ora molto passato di moda, ma che all'epoca era un maître à penser, era insomma una figura dominante. Era il capo della Nouvelle Revue Française, cioè la più importante rivista e casa editrice legata alla Nouvelle Revue Française, almeno quelli più grandi dovrebbero saperlo, è Gallimard, di cui il nome l'avrete sentito, l'editore Gallimard. Si tratta di André Gide. André Gide disse che questo ritornello di Baudelaire era una summa estetica dell'arte di Baudelaire. L'arte è quella che lui definisce con queste cinque parole. Là, cioè in questo paese, tu ne corde, ordine, e beauté, luxe, calme e volupté. Cerchiamo di capire bene la differenza fra queste parole, perché anche per noi può essere un grandissimo insegnamento. Non solo Baudelaire è stato un grande poeta, un grande poeta, un sommo poeta, direi insomma in certe cose a livello di Dante, di Shakespeare insomma, ma è stato un grande pensatore, un uomo con una lungimiranza straordinaria. Quindi queste parole ci possono tornare utili se amiamo la letteratura, ben inteso. In questo paese tutto è soltanto ordine. Quindi la disciplina è fondamentale. Che cos'è la disciplina? La disciplina è una brutta parola, naturalmente, perché voi siete stati costretti alla disciplina a scuola. È in casa. Non è possibile che per quanto i vostri genitori siano stati rilassati nei vostri confronti, non vi abbiano dato delle norme di disciplina. Io voglio vedere se a 12 anni voi ragazze potevate tornare a casa alle 2 di notte. Ho dei dubbi. Che cos'è la disciplina? È quella per cui vi sto facendo lezione in questo momento. La disciplina è dirsi: ci sono delle cose più importanti. È il preparare bene un proprio lavoro, il far bene il proprio lavoro, e poi estendendosi alle minuscole cose del quotidiano che non sono poco importanti. Io l'ho detto spesso sorridendo: è far bene il caffè, quella è la disciplina. È rifare bene il letto e non tirando su semplicemente le coperte, le lenzuola. È lo spazzare per terra. E badare quando si ha un atto sessuale che l'altra persona sia, nei limiti del possibile, contenta. Questa è la disciplina. Quindi l'arte deve essere anzitutto disciplina, ordine, poi deve essere bellezza. Sembra una tautologia, ma l'arte non è arte se non è bella. Questo è un concetto più facile da recepire, ma quando noi vediamo, per esempio, in tante manifestazioni presunte di arte, vediamo la bruttezza, non dobbiamo avere paura di dire queste sono cose brutte, perché ci sarebbero dietro infiniti discorsi da fare, insomma, perché secondo la nostra formazione, il nostro gusto, quello ci appare brutto. In realtà non abbiamo molte riserve, molti dubbi, perché quando usciamo da un cinema e abbiamo visto un film brutto, non abbiamo esitazioni a pensare o a dire a chi sta con noi che quel film è brutto. Ma l'arte è bella. E questo è uno dei motivi per cui vale la pena occuparsi dell'arte. Perché l'arte è bella. No? La terza cosa è il lusso. Questa è una cosa squisitamente, direi, unicamente baudelariana. Il lusso è il di più. Voi naturalmente potete vestirvi con degli abitucci comprati per motivi economici, cosa del tutto comprensibile, comprati su una bancarella. Ma secondo l'idea di Baudelaire, che se tu ti vesti con qualcosa di pregiato, se tu scrivi in modo pregiato, se tu dipingi in modo lussuoso, questo di più è una promessa di felicità. Mi vengono in mente strane cose, ma che adesso vi dico. Se uno abita solo, vive solo, in teoria, facendosi cucina all'ora di pranzo, può cucinare in una pentola e mangiare lì, vicino a quello che oggi si chiama l'angolo cottura, vicino al fornello, immergendo il cucchiaio nella casseruola e basta. Ma io ho dei ricordi di esploratori, non che li abbia visti, perché ne ho sentito parlare, di esploratori nella foresta in Africa o vicino al Rio delle Amazzoni, inglesi, il topos non può altro che riguardare che l'Inghilterra, che dovendo farsi da mangiare, poi avevano la loro tovaglietta, mettiamo, forchetta, coltello, per prepararsi quel pochissimo che avevano. E questo è il lusso. Il lusso sono queste piccole cose eccedenti anche le nostre possibilità che in qualche modo rendono più lieta la vita. Se tu all'ora di cena vuoi farti un aperitivo, se tu vai a farti un aperitivo con gli stuzzichini che danno, no? Normalmente, eccetera, tu vai a spendere, perlomeno dalle mie parti, vai a spendere 5 euro e qualcosa in più, per nulla. Qualche stuzzino, quanto costerà a loro? un crodino. Di queste cose mi sono trovato spesso a parlare con mia figlia, che è una donna di grandissima intelligenza, ma è molto diversa da me, sta sul risparmioso, anche perché poveretta non può fare diversamente. Allora dico, andiamo a prendere un aperitivo? Ma che bisogno c'è? Ah no, gli ho detto, non c'è nessun bisogno, stiamo parlando di un aperitivo. Però qualche minuto della giornata può essere reso migliore dal piccolo piacere di un aperitivo. Quindi possiamo usare questa formula compendiosa mia, che mi sto inventando in questo momento: l'arte è anche un piccolo aperitivo. Questa ci tengo che me la mettiate. L'arte è anche un piccolo aperitivo. Calma. Questo è difficile da capire. Questo è sinceramente difficile da capire. L'arte calma. Ma come voi dite, ma anche l'arte più effervescente, Guernica. Di chi è Guernica? Picasso. È calma? Ma guardate che tutto quello che si risolve in una dimensione di bellezza poi ha una calma profonda, per cui poi torni e vedi che il contenuto non è calmo, ma la sensazione che tu ne ritrai invece è di calma. Cioè, è facile dire che è calmo l'Orlando Furioso, no? Ma prendiamo un libro tormentato e mirabile come l'Ulisse di Joyce. Tempo fa vi dicevo, mi mettevo sullo stesso piano un'emozione estetica e una pisciata maschile trasversale, ve lo ricordate? Sapete chi faceva così? Joyce. Parlava delle cartine che avvolgono le caramelle di un cartellone pubblicitario, di un libro, di un pensiero profondo sullo stesso piano. Tutto è, potremmo dire, usando la celeberrima, forse famigerata, espressione di Nietzsche, tutto è umano, troppo umano. Quindi la calma che l'arte ti dà è un elemento essenziale, indipendentemente dalla cruenza del contenuto, dallo sconvolgimento del contenuto. L'ultimo elemento è la voluttà. Voluttà vuol dire piacere forte, carnale. L'arte ti deve dare questo piacere forte, carnale. Noi spesso dimentichiamo quanto la voluttà sia importante. E lo dimentichiamo proprio nelle cose in cui dovrebbe essere più importante, per esempio nelle esperienze amorose. Si hanno esperienze amorose che diventano tragicamente routinier. Perché? È perché la fantasia non è di tutti. È perché la vita quotidiana è di tutti. Perché siamo stanchi, vedete quante ragioni sto enumerando, perché siamo annoiati, perché se uno non ha più il brivido iniziale, e che deve fare? Il brivido iniziale, ma non ce lo dà neanche un componimento musicale immenso. I brividi hanno il loro tempo, non è detto che se tu senti sempre un pezzo che ami del Parsifal, no? Ogni volta risenti lo stesso brivido. Però ricordiamoci che nell'arte senza voluttà non si va avanti. Voluttà vuol dire piacere di mangiare anche, no? E questo fatto del piacere di mangiare, adesso ve lo dico con un paragone bellissimo che mi viene in mente. Uno dei maestri di Proust, uno dei pochi maestri veri di Proust, era l'esteta inglese, di cui vi ho già fatto menzione sicuramente, che si chiamava John Ruskin. Ve ne ho parlato mai di John Ruskin? John Ruskin diceva che la cattedrale gotica di Amiens era una delle cose più belle del mondo. Io sono stato due volte ad Amiens in vita mia, e seguendo gli insegnamenti di Ruskin, la piazzetta dove si trova la cattedrale è una piazzetta su cui sfociano varie stradine, come si usa in quella cittadina. Nella facciata della cattedrale di Amiens c'è qualcosa di scandaloso e di meraviglioso. C'è una Madonnina che sembra una ballerina, sembra una soubrette. Ora, voi pensate che ci troviamo in un'opera del Medioevo, dell'Alto Medioevo. Ci troviamo all'interno dello stile gotico, che semmai ci fu stile sacrale nella storia dell'arte, è per l'appunto il gotico. Non solo sacrale, ma anche duro, burbero. Nel Rinascimento si considerava lo stile gotico, si considerava l'aggettivo gotico come qualcosa di barbaro. E lì c'è una Madonnina che sembra una ballerina, come una volta si sarebbe detto, delle Folies Bergère. Allora, per andare a vedere questa cosa meravigliosa, Ruskin suggeriva una cosa che è molto vicina a questa idea della voluttà di cui parla Baudelaire. Diceva: bisogna andarci stando bene. Stando bene vuol dire aver fatto bene l'amore. Naturalmente Ruskin era molto pudico, quindi si sarebbe ben guardato dal dire una cosa del genere. Se uno ha scopato bene, vede bene l'arte, su questo non c'è dubbio. E lui suggeriva qualcosa di più dicibile, di più innocuo. Diceva: lungo le stradine che portano alla cattedrale ci sono delle meravigliose pasticcerie. Bisogna comprarsi dei bignè, bisogna comprarsi dei pasticcini, bisogna mangiarli, ma soprattutto bisogna tenerli in bocca mentre si guarda la cattedrale di Amiens. Bisogna cioè poter avere un piacere fisico mentre guardiamo la cattedrale di Amiens. Quando qui Baudelaire parla della voluttà, intende dire che l'artista che non si esprime in modo voluttuoso, amando quel che dice, facendo amare quel che dice, è un artista evidentemente fallito.